Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Un voto a larghissima maggioranza per acclamazione ad alzata di mano, poi un applauso hanno segnato il via libera dell'Aula di Strasburgo alla mozione sui marò italiani. Il voto del Parlamento di Strasburgo incoraggia l'alto rappresentante per gli esteri Federica Mogherini a intraprendere ogni azione necessaria per proteggere i due fucilieri italiani, definendo la questione di rilevanza europea. A proporre il tema l'europarlamentare Lara Comi, e allora le abbiamo chiesto: soddisfatta e soprattutto ora che farete? Molto soddisfatta. Noi adesso abbiamo dato mandato all'alto rappresentante Mogherini e ieri nel discorso io ho specificato che abbiamo 3 mesi di tempo, perché non deve ritornare la torre e deve ritornare Girone, quindi siamo disposti anche attraverso naturalmente l'attività del Parlamento a bloccare i negoziati di libero scambio che si stanno facendo con l'India. È stato un voto bipartisan, ma soprattutto che ha riguardato tutti i paesi dell'Unione Europea, c'è stata insomma una sensibilità comune. Questa è la forza ed è quel plus in più secondo me per trovare una soluzione a questa vicenda. E soprattutto in un caso di lesione dei diritti dell'uomo c'è proprio anche all'interno dei vari trattati il fatto che non si possono intraprendere accordi commerciali con paesi che ledono i diritti dell'uomo. Ed è a Roma il vicepresidente della Commissione europea Katainen, arrivato per 2 giorni con l'obiettivo di spiegare il piano Juncker per la crescita, ma anche raccogliere l'adesione italiana, anche finanziaria, al piano strategico per gli investimenti. L'Europa ha un disperato bisogno di crescita, ha detto Katainen, che ha incontrato i parlamentari italiani e anche il ministro dell'economia Padoan. Ho incontrato il ministro italiano, l'Italia mi ha detto non ha ancora deciso quanto abbia intenzione di investire. Ma è importante che tutti i paesi investano per creare lavoro, ha detto Katainen. La nuova Commissione europea guidata da Juncker ha dato massima priorità al rilancio degli investimenti perché tutti gli Stati membri hanno disperatamente bisogno di crescita in Europa. Ha detto ancora il vicepresidente della Commissione, c'è tantissimo denaro ma questi soldi non vengono utilizzati, occorre mobilitare i capitali privati. Il fondo avrà una dotazione di 21 miliardi, risorse sufficienti a mobilitare, secondo Juncker 315 miliardi. E dovrebbe essere operativo da giugno. Sono ottimista, ha concluso, sul fatto che molti stati aderiranno. E dicevamo dei marò italiani. Il Parlamento europeo ha condannato oggi con un voto in plenaria anche le recenti retate della polizia e l'arresto di numerosi giornalisti in Turchia, e un altro voto di Strasburgo ha definito un'ingerenza politica del Cremlino la condanna per appropriazione indebita di Alexei Navalny, l'avvocato russo maggiore oppositore di Putin. E proprio in questi giorni torna alta anche la tensione tra Russia ed Europa sul gas. Mosca torna a minacciare l'Europa sulla sicurezza energetica. Nell'incontro tra l'amministratore delegato di Gazprom Alexei Miller e il vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic, i russi hanno affermato che il transito di gas verso l'Unione Europea resta a rischio quest'inverno. Per Miller l'Ucraina, a causa ristrettezze finanziarie, non avrebbe acquistato lo stock necessario negli ultimi 2 mesi, riducendo sostanzialmente il volume delle riserve dei suoi depositi sotterranei. Ma c'è di più. Mosca ha reso chiaro che, dopo la cancellazione del progetto South Stream 1 mese e mezzo fa, in futuro gli europei dovranno connettersi al gasdotto che unisce Russia e Turchia se vorranno continuare ad approvvigionarsi. Il tracciato ucraino, insomma, sparirà dalle mappe di fornitura russe. Avete 2 anni di tempo per costruire infrastrutture che colleghino la Grecia con la Turchia, ha in sostanza avvertito Miller, che si è spinto fino a mettere in chiaro che l'Europa deve cominciare ora con la costruzione del gasdotto di collegamento se non vuole rischiare interruzioni nell'approvvigionamento già nel 2017. Il gasdotto Turkish Stream costituirà il solo itinerario di trasporto dei 63 miliardi di metri cubi di gas attualmente in transito sul territorio ucraino, ha sentenziato l'uomo forte di Gazprom. La Commissione, da parte sua, ha abbozzato. L'Europa auspica una soluzione alternativa ed economicamente più sostenibile di Turkish Stream, ha detto Sefcovic. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per ora è tutto anche da Anna Migliorati. L'Europa vi aspetta ancora, come sempre vi ricordo, a Europa Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.